Oggi è una giornata da incorniciare nella lotta contro la criminalità organizzata e la camorra in particolare. Dopo la strage avvenuta in provincia di Caserta abbiamo intensificato l'azione di contrasto alla criminalità e questa notte abbiamo inferto un colpo durissimo al clan dei Casalesi e alla camorra. E contemporaneamente la Guardia di Finanza, il GICO della Polizia Tributaria di Napoli, ha eseguito delle sequestri di beni appartenenti al clan dei Casalesi per un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro.